Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo nella seconda ora dello spread italiano, come già i nostri GR24 vi hanno anticipato. Oggi è sceso sotto quota anche 100 punti, 98 punti. Sembrano passati secoli da quando viaggiava oltre i 500 punti, ricorderete fine 2011, ed è una soglia oltre che numerica, ma soprattutto psicologica. È la prima volta che capita dal metà maggio del 2010, quindi sostanzialmente quasi 5 anni. E il rendimento del BTP italiano a 10 anni è a un nuovo minimo storico, ovviamente all'1. Rende l'1,305% lordo. Ora, siccome la Banca d'Italia stima che una riduzione di 100 punti dello spread, della differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania, questo corrisponde a un risparmio di 0,2 punti percentuali di PIL nel primo anno, 0,4 nel secondo, 0,5 nel terzo. In pratica, i 50 punti di riduzione che il nostro spread ha avuto dalla presentazione della nota di aggiornamento al Parlamento, che corrispondono sostanzialmente a un risparmio di circa 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro. Questo è il dato che poi commentavamo qualche giorno fa, quando la stima sui risparmi che avrebbe avuto lo Stato e quindi anche il governo nella manovra dall'andamento di uno spread così basso, risparmi in che cosa? Negli interessi che paghiamo sul debito. Noi paghiamo circa 70 miliardi di euro all'anno di interessi sul nostro debito, come qualunque famiglia che ha un mutuo, ha un debito con la banca e ci paga sopra gli interessi. Ecco, visto che ci costa meno quello che paghiamo di interessi, il risparmio è calcolato in 6-7 miliardi di euro all'anno, ma dovesse mantenersi, è tutto da vedere, a questi livelli sarebbe un risparmio anche superiore, con la conseguenza, non dico di migliorare i conti pubblici, ma almeno se dovessero rentrare meno soldi dei previsti, come è probabile, dalla spending review, 7 miliardi e mezzo sembrano un po' realistici, dalla riduzione della spesa, oppure dalla lotta all'evasione fiscale, almeno te ne entrano di più, te ne entrerebbero o te ne potrebbero entrare di più dalla riduzione di quanto paghi di interessi sul debito. E questo è il tema che affronteremo nella seconda ora del programma, anche perché al di là dei tweet del Presidente del Consiglio, oggi l'Istat ci fa notare che migliora la deflazione, ossia continua a calare, i prezzi al consumo continuano a calare dello 0,2% a febbraio rispetto a un anno prima, ma non è così forte come quella di gennaio, meno 0,6%. Sono aumentati molto i prezzi dei vegetali freschi, più 11%. E ancora il carrello della spesa, ossia l'andamento dei prezzi al consumo dei generi più comprati, più acquistati, è salito dello 0,7%. E poi l'Istat, nella consueta indagine, il rapporto sulla competitività dei settori produttivi, segnala che l'80% delle aziende manifatturiere interrogato, e quindi a cui sono state poste le domande, si è dichiarato in grado di far fronte a un aumento della domanda interna, sono pronti alla ripresa, ma attenzione, questo può significare che le aziende sono in grado di rispondere a una ripresa economica, perché nonostante la crisi non hanno distrutto il potenziale produttivo, ma implica anche un altro aspetto che è più negativo, che se sono pronte a far fronte a una ripresa della domanda, vuol dire, se sono già pronte, vuol dire che non c'è bisogno di fare molti investimenti o aumentare l'occupazione. Magari basterà riassorbire la cassa integrazione, che già sarebbe qualcosa. Questo per quello che riguarda lo scenario complessivo. Invece poi ci occuperemo anche di quanto annunciato oggi a Milano il Fondo Sovrano del Qatar, che è un fondo che gestisce 100 miliardi di dollari di partecipazioni. Pensate che ha un budget annuale di investimenti a disposizione di 40 miliardi, tra i 40 e i 50 miliardi. Ogni anno ha a disposizione tra i 40 e i 50 miliardi di dollari da investire. Ebbene, poi lo racconteremo nel dettaglio, oggi, dicevo, il Fondo Sovrano del Qatar è diventato il proprietario unico di Porta Nuova. Per chi ha visto Milano recentemente, è l'area dove sono nati i grattacieli, quello di Unicredit, la Torre Unicredit, ma tutti i grattacieli più importanti in quello che si chiama Triangolo della Moda. Lo ha annunciato il numero uno di Ines SGR, Manfredi Catella, e quindi tutta quell'area immobiliare della i nuovi grattacieli di Milano va al Fondo del Qatar, che è famoso anche perché ha già comprato il marchio Valentino e quindi la moda. Ma tra l'altro ha comprato gli hotel di lusso della Costa Smeralda, pagati oltre 650 milioni di euro, il Four Seasons a Firenze e l'Hotel Galli a Milano. Possiede la squadra di calcio del Paris Saint-Germain e tra l'altro controlla gran parte di Canary Wharf, che è quella parte di Londra sul Tamigi, la nuova parte dove c'erano i docks. Anche lì grossissimo investimento finanziario, è il nuovo distretto finanziario della capitale britannica, vale 3,48 miliardi di euro. E insomma, il Qatar è anche il paese che ospiterà i mondiali di calcio 2022, con tutte le polemiche, gli scandali che abbiamo raccontato. Parleremo anche di questo, parleremo dell'occhialeria italiana. Domani si apre la più importante fiera al mondo dell'occhiale. Noi siamo i leader nell'occhialeria a livello mondiale, un settore che vale 3 miliardi di euro per il nostro paese, ne vale 3,2 e ne esporta 3,1, pensate un po', cioè esporta il 95% della produzione. In aumento tutto l'export anche verso la Cina e gli Stati Uniti, l'unico calo ovviamente quello verso la Russia, e quasi 20.000 addetti, 17.000 addetti per essere precisi nel settore. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, più 0,72% Milano, più 0,60% Parigi, più 0,55% Francoforte, più 0,13% Londra, meno 0,12% l'America. Tra i titoli, G-Tech più 3,80%, Moncler più 3,30%, Pirelli più 3%, Monte dei Paschi più 2,15%, Enel più 1,80%, Atlantia più 1,60%, Mediaset più 1,5%, Enel Green Power più 1,40%, Intesa più 1%. Perde World Duty Free l'1,60% e Yux l'1,50%. Euro sempre a quota 1,12 e anche verso quota 1,11, 1,12,20 in questo momento. Per quello che riguarda i titoli, poi avremo il commento chiaramente su tutto il resto. Vorrei continuare con le notizie internazionali. Il petrolio sale dell'1,7% a 49 dollari al barile. Ci occuperemo anche del prezzo della benzina, perché continuano ad arrivare le segnalazioni dell'aumento dei prezzi alla pompa, e cercheremo di capire perché a questo stia avvenendo. L'Unione Petrolifera, tanto per cambiare, dice che rispecchia l'andamento dei prezzi del carburante. La benzina è tornata verso l'1,7 euro. Al sud la soglia è già stata superata, la verde viene venduta a 1,763 euro come punta massima osservata. Ma parliamo di benzina, perché oggi il Centro Studi Promotor ha fatto notare come a gennaio gli italiani hanno risparmiato 760 milioni di euro per fare il pieno di carburante complessivamente, chiaramente. La spesa alla pompa è stata di 4 miliardi e 137 milioni contro i 4 miliardi e 900 milioni dello stesso mese del 2014, meno 15,5%. È ovvio che uno può dire magari hanno usato meno la macchina perché la crisi è andata avanti, però parliamoci chiaro, non è che nel gennaio 2014 non ci fosse la crisi e chi poteva risparmiare non avesse già messo in pratica comportamenti volti al risparmio, per cui insomma probabilmente il grosso di questo effetto è la diminuzione del prezzo del carburante, per cui in valore hai fatto lo stesso pieno, ma in valore c'è un calo del 15,5% e quindi 760 milioni di euro. Il PIL americano, pur essendo rivisto al ribasso al 2,2%, il dato è migliore delle stime, tant'è che la Casa Bianca dice bene, la nostra economia resiste al rallentamento della crescita mondiale. La Germania, anch'essa in deflazione, meno 0,1% su base annua, è il secondo calo consecutivo a febbraio dopo quello di gennaio, non accadeva dal 2009. Ma oggi la notizia più importante che riguarda la Germania riguarda il Bundestag, quindi il Parlamento tedesco, che ha approvato a larga maggioranza il prolungamento degli aiuti alla Grecia. 542 sì, 32 no, 13 astenuti. E il ministro delle finanze, da sempre considerato il falco del governo, mi riferisco a Wolfgang Schäuble, ha detto, parlando appunto al Bundestag: il voto di oggi serve a dare più tempo alla Grecia per realizzare con successo il suo programma, aiutiamo la Grecia per dare il tempo di diventare di nuovo competitiva sul mercato, noi tedeschi dobbiamo far tutto per mantenere l'Unione Europea unita, il nostro futuro e in particolare quello della Germania può essere buono solo in un'Europa unita. Oh, non so se devo preoccuparmi, ma sono totalmente d'accordo con Schäuble questa volta, per quello che gliene possa fregare a Schäuble. È così, non sempre a questa dichiarazione a nostro avviso sono seguiti i fatti, ma importante che il ministro delle finanze, potentissimo ministro delle finanze tedesco, nonché potentissimo esponente politico della CDU, dica questo al Parlamento tedesco, cioè che il futuro della Germania è buono solo se resta unita l'Europa e se resta nell'Europa unita. Allora, adesso arriviamo anche allo spread, anzi facciamo così, ascoltiamo i 100 secondi del vice direttore del Sole 24 Ore, oggi la volta di Alberto Rioli, su questo calo sotto i 100 punti del nostro spread, e poi, prima di arrivare a notizie anche positive, qualcuno mi scrive: ma non parlate più degli sprechi della pubblica amministrazione? Ricordavo ieri, stiamo organizzando una versione 2.0, chiamiamola così, perché non... E dopo 2 anni farla tutti i giorni diventava una fatica di Sisifo delle volte, e quindi avremo a questo punto la classifica dalla prossima settimana, se ce la facciamo, tutti i venerdì probabilmente, la classifica, la top 5 o la top 10 degli sprechi più assurdi, ingiustificati, incomprensibili, vergognosi, di cui veniamo a conoscenza, così li raggruppiamo e li mettiamo anche in classifica. Però oggi una cosuccia ce l'avrei, riguarda l'attuale presidente e amministratore delegato dell'ANAS, Pietro Ciucci, lunga carriera all'ANAS, poi anche lunga carriera alla società Ponte sullo Stretto di Messina. Insomma, c'è una cosa un po' singolare. Prima però i 100 secondi di Alberto Rioli, realizzati come sempre in collaborazione anche con Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Il celebre spread tra i BTP a 10 anni italiani e i Bund tedeschi è sceso sotto quota 100. Il mercato, si sa, vive di soglie psicologiche e quota 100 era proprio una di queste. Scendere a 99 e anche più giù però non significa automaticamente che l'Italia è diventata improvvisamente virtuosa. Chi compra titoli di Stato fa razzia di BTP perché in Europa sono quelli a più alto rendimento a parità di rischio. Ormai il mercato attribuisce ai titoli italiani lo stesso rischio attribuito a paesi anche più blasonati. Ciò che conta è l'attesa del famoso quantitative easing annunciato dalla BCE. I dettagli di come questa gigantesca emissione di liquidità imminente hanno sorpreso favorevolmente i mercati, che già stanno scontando quella valutazione positiva. Ora il BTP a 10 anni ha un tasso intorno all'1,36, l'omologo spagnolo è all'1,27, sono valori che fino a molto tempo fa erano assolutamente impensabili. È evidente che hanno poco a che fare però con il vero rischio paese e la solidità socio-economica dei due stati emittenti. La riprova arriva dal T-bond statunitense, e il titolo decennale di Washington infatti ha un rendimento superiore al 2%, ed è inimmaginabile che gli Stati Uniti possano essere creduti meno solvibili dell'Italia o della Spagna. L'importante quindi adesso è non disperdere questo dividendo europeo, che porta già nelle casse pubbliche un rilevante sconto nel pagamento del servizio del debito, cioè degli interessi. Nonostante la propaganda, questo nuovo corso non è del tutto merito nostro, lo è ancora in minima parte. Prenderne atto è una promessa importante per non sbagliare i prossimi passi delle riforme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Abbassare non sarebbe più la fosse in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drecche più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drecche più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora sì, vedo già molti sms sulla top 5. Aspettate la prossima settimana. Per ora vi dico già che al numero 1 resta la notizia dei 18 magistrati impegnati per 5 anni per occuparsi della morte di un piccione ucciso da un avvocato di 50 anni con un fucile ad aria compressa dopo che si era presentato in palese stato di ebbrezza alcolica dai carabinieri. Non sto scherzando, 5 anni e 18 magistrati si sono occupati della vicenda per capire se aveva solo ucciso un animale con crudeltà o aveva anche il reato di getto pericoloso di cose. Vabbè, questa resta al primo posto. No, ma invece voglio essere serio, io chiedo come sia possibile che il presidente amministratore delegato dell'ANAS, Pietro Ciucci, nel 2013 decise di licenziare il direttore generale dell'ANAS, che si chiamava Pietro Ciucci. Omonimia? No, era sempre lui. E vabbè, perché lui ricopriva le tre cariche e è uscito da una di queste tre cariche, e fin qui va bene. Però non si è consultato con se stesso, evidentemente c'è un caso di dissonanza cognitiva. Perché nel calcolo della buonuscita il direttore generale Ciucci si è visto anche inserire l'indennità di risoluzione senza preavviso, cioè lui non aveva avvisato se stesso che si sarebbe licenziato da quella carica, e quindi c'è l'indennità perché non si è autoavvisato. La mano destra non sapeva quello che faceva la sinistra. Sembra vabbè, non voglio andare oltre, dai. E quindi, mancando il preavviso, si è beccato 780.000 euro di indennità senza preavviso. Tra l'altro, questa comprendeva anche l'indennità in caso di risoluzione consensuale del rapporto del lavoro. Ora, se fosse stato consensuale, non avrebbe preso i 780.000 euro. Ma siccome non era d'accordo con se stesso nel licenziarsi da direttore generale, era un non preavviso. Ora, in questo modo, tra un'indennità e l'altra, Ciucci porta a casa 1.825.000 euro di buonuscita e va in pensione come direttore. Per cui questa... Poi, come presidente amministratore legato, resta, e dubito che farà causa al direttore, cioè a se stesso. Praticamente lui a questo punto ha sia il compenso come presidente dell'ANAS, amministratore legato, sia la pensione da ex direttore generale dell'ANAS dopo 44 anni di servizio. Ora, immagino che il direttore Pietro Ciucci, l'ex direttore Pietro Ciucci, ringrazi l'attuale presidente Pietro Ciucci per non avergli dato il preavviso che ha permesso di portare appunto l'indennizzo della risoluzione senza preavviso a 780.000 euro. È un caso molto freudiano, cioè il sé, il me, l'ego non si parlavano e quindi non si sono avvisati. E va bene anche così. Poi al di là delle polemiche sull'ANAS, sull'inaugurazione che abbiamo visto di viadotti che chiudi, ma questi sono dettagli. Però chissà cosa capiterà quando il presidente licenzierà l'amministratore delegato, lì di nuovo si riapre la vicenda. Allora, parliamo di cose serie, o meglio, questa è serissima, ma parliamo di cose di altro genere, perché oggi a Milano è stato dato l'annuncio, come ricordavo in apertura, che sostanzialmente quella che è l'area, per chi ha visto Milano in questi mesi, di maggior sviluppo, dove si sono creati i grattacieli, le torri di Unicredit, il Diamond, e insomma il triangolo della moda, è stata ceduta al 100% al fondo sovrano del Qatar. Stanno ridendo in regia perché ho detto il triangolo della moda, è una grandissima cavolata. C'è il quadrilatero della moda e poi c'è l'area nuova della zona, per chi conosce Milano, della stazione Garibaldi, Corso Como, dove sono sorti questi edifici. Il triangolo della moda, boh, non ho capito, anch'io sono come Ciucci, ogni tanto non capisco, non sono d'accordo con quello che dico. Allora, Heinz ha venduto al Fondo Sovrano del Qatar. Siamo in collegamento, lo ringrazio, con l'amministratore delegato di Heinz Italia, Manfredi Catella. Buonasera. Buonasera. Allora, al di là delle mie dissociazioni più o meno cognitive, quanto ha pagato il Qatar? Questa è la domanda, è la giusta domanda a cui giustamente io non rispondo. Vabbè, io ci ho provato, visto che avete detto che è il vostro lavoro. Che non... Allora, hanno comprato il 100%, adesso veniamo alla parte ancora più operativa. Il Fondo Sovrano del Qatar, come ricordavo prima, intanto è il più forte investitore estero negli ultimi anni in Italia, dopo aver comprato appunto gli hotel di lusso in Costa Smeralda, Four Seasons a Firenze, Gallia, Valentino come maison di moda, poi Canary Wharf ne controlla gran parte a Londra e anche la squadra di calcio Paris Saint-Germain. Ma cerchiamo di capire, il piano industriale qual era? Voi avete ricevuto un'offerta così alta che non potevate dire no, o c'è anche una prospettiva futura su questo? No, direi una prospettiva futura. Il Qatar era già diventato investitore nel progetto di Porta Nuova al 40% nel giugno del 2013. A distanza di un anno e mezzo, contestualmente al completamento del progetto, il Qatar ha deciso di incrementare la propria partecipazione fino al 100%, acquisendo sostanzialmente le partecipazioni degli investitori precedenti, che erano stati gli sponsor del progetto di sviluppo, che naturalmente a fine sviluppo e quindi al completamento sarebbero poi usciti. Chiaramente è un fatto importantissimo per l'Italia, perché con questa transazione, che per dimensione è sicuramente una delle più importanti da sempre in Italia ma anche a livello europeo, riporta l'Italia nella mappa dei grandi investitori internazionali. Sta già facendo il giro del mondo questa notizia, e questo sicuramente verrà guardato con grandissimo interesse da tutti gli investitori internazionali, che chiaramente poi quando vengono in Italia e si stabiliscono con i propri capitali diventano parte dell'economia, e questo è estremamente positivo. Allora, tra le società che hanno già scelto di insediarsi a Porta Nuova ci sono Nike, Google, poi ricordavo il grattacielo, la torre più alta, quella che si vede, di Unicredit, il cosiddetto bosco verticale, che ha vinto anche il premio di architettura, mi corregga Manfredi Catella, un premio europeo internazionale di architettura, è già venduto al 65%, e poi la parte residenziale di Porta Nuova, sono 380 unità abitative in 13 edifici. A noi risultava che l'intera area avesse un valore di mercato di oltre 2 miliardi di euro, anche a lei risulta? Sì, anch'io l'ho letto sui giornali. Ma gli avete fatto un po' di sconto a Qatar? No, beh, insomma, è uno dei progetti più straordinari italiani, loro devono venire qui in Italia e stare con noi per molto tempo, quindi... Quindi un po' di sconto gli avete fatto? Hanno un premio per entrare nel nostro paese. Quindi hanno pagato di più di 2 miliardi? Hanno pagato molto. Ah, bene, va bene, nel senso che... Senta, è al di là della cifra, che tanto voi non potete darla per 6 mesi, mi sembra, questa cifra. Com'è? No, molto di più non la daremo mai. Non avete mai? Va bene, non lo sapremo mai. Beh, non ci sfidi. Però su questo, in realtà, adesso ragionando proprio sull'operazione, non voglio i dettagli, chiaramente, che fanno parte dei vincoli che lei ha, ma cos'è la cosa, visto che hanno pagato un prezzo più alto del valore di mercato, diciamolo così, cos'è la cosa che secondo lei ha convinto il Qatar a investire? Non so se sia, non penso che uno investa perché c'è l'Expo per 6 mesi, per quanto noi vogliamo bene all'Expo e quant'altro. Assolutamente no, direi che alla fine le motivazioni sono molto semplici. Partiamo da un commento semplicissimo. Gli investitori sono razionali e quindi investono sulla base della qualità dell'oggetto dell'investimento. In questo caso è stato valutato un progetto svolto secondo gli standard più evoluti a livello edilizio, di architettonico, urbanistico, no? Gestito in modo rigoroso, e quindi questo è. Cioè, la cosa importante è che l'Italia una volta tanto produce, in questo caso, un progetto immobiliare che viene considerato alla stregua dei migliori progetti a Londra, a New York o nel resto del mondo. Questo è il vero grande messaggio. Poi sicuramente loro hanno valutato questo, ben venga per noi la nostra struttura italiana qualificata per diventare anche il loro gestore in Italia, e questo vale sia per quanto riguarda l'SGR nostra che per l'azienda di famiglia. Ecco, ma nelle trattative, per quello che ci può dire, c'è qualche elemento, visto che sempre diciamo che mancano gli investimenti degli stranieri in Italia, infatti non sono d'accordo con chi dice il capitalismo sfrenato che ci divora, magari ci volessero divorare. Guardate che, ragazzi, il problema è farli venire in Italia gli investitori, non che comprino troppo. Dopodiché difficile delocalizzare degli immobili, non so come spiegare, cioè non è che prendi un grattacielo e lo sposti, per cui non capisco la critica, ma dico, nelle trattative, che immagino essere state come sempre in questi casi molto complesse, con una due diligence anche complicata quando si parla di immobili di vario tipo e genere, qual è la cosa che secondo lei ha sorpreso o è piaciuto di più a chi gestisce il fondo del Qatar e che magari ha sorpreso anche lei? Ma io credo che in realtà la sorpresa più forte è quella di non sorprendersi, cioè il fatto di un investitore internazionale che viene in Italia e invece che trovare una situazione che riflette quello che sono i luoghi comuni, no? Che poi si pensa sugli italiani, e quindi aziende che in qualche modo non rispettano il rigore o il metodo che in qualche modo è diventato uno standard nelle transazioni internazionali. Invece in questo caso si sono trovati un linguaggio compatibile, quindi questo forse è proprio il non sorprendersi che è stato l'elemento più importante della trattativa. Cioè trovare tra virgolette un paese normale. Esatto, trovare un paese normale. Catella, cosa farete di questi soldi? Allora, pubblicità su Radio 24? No? Esatto, no, forse la compriamo. In realtà gli investitori, no, l'altra grande soddisfazione personale dei miei collaboratori, eccetera, è che in un periodo così difficile come quello che abbiamo attraversato come paese, e quindi noi siamo riusciti a portarci appresso in questi anni investitori anche internazionali, che oltre a Unipol, che come compagnia italiana, c'erano fondi pensione americani, canadesi e così via, e escono in realtà da questo progetto con un rendimento positivo, in totale controtendenza rispetto a non solo al mercato immobiliare ma anche al mercato borsistico. Quindi questa è la vera soddisfazione, cioè la vera soddisfazione è che noi abbiamo fatto il nostro mestiere, abbiamo ridato i soldi con un rendimento positivo agli investitori, e il nuovo investitore è un investitore di lungo periodo, altrettanto contento di rimanere qui e andare avanti in questa storia. C'è un vincolo sull'investimento? Cosa vuol dire un vincolo? Nel senso, loro hanno comprato ma non hanno detto terremo questa quota, hanno comprato e basta. Lei presume che sia un investimento di medio-lungo termine? No, più che presumo, è una strategia molto precisa loro, cioè la strategia è come quello che hanno fatto a Canary Wharf. Poi nell'ambito dei confronti che stiamo avendo con loro sono aperti a far entrare anche altri investitori come loro, quindi di lungo periodo, che non devono essere per forza internazionali, possono naturalmente essere anche italiani. E quindi insomma diventa una compagine solida e stabile. Bene, ma abbiamo capito che insomma l'hanno pagata più di 2 miliardi, il doppio l'hanno pagata, no, doppio no, va bene, più di 2 miliardi l'hanno pagata però. E ha ragione nel dire, perché non è un dettaglio, nel citare la soddisfazione di chi ha investito, perché il progetto Porta Nuova, dentro, oltre a Heinz, c'era anche Unipolsai, c'erano fondi di investimenti di diritto italiano. Per cui quando uno investe, poi è un successo vedere che tu riesci a guadagnarci, perché vuol dire che c'è un mercato vivo e dinamico, non morto e stagnante. Faccio notare, visto che me lo chiedete con i messaggi su Facebook, che il fondo del Qatar è anche proprietario dei magazzini Harrods, è corretto, a Londra. Corretto. E anche, no, lo segnalavano alcuni ascoltatori, anche il famoso Shard, che ha visto Londra recentemente, la scheggia, l'edificio più alto d'Europa, quello di Renzo Piano, e il villaggio olimpico realizzato per le Olimpiadi a Stratford. Grazie all'amministratore delegato di Heinz Italia, Manfredi Catella. Grazie a voi. Vedo che alcuni sperano che il fondo del Qatar si compri pure noi. Oddio. Sì, la vedo dura la zanzara col fondo del Qatar, che non è che proprio gli Emirati. Invece, giustamente, tornando all'esempio di Ciucci, scrive un ascoltatore come se Barisoni, lei da vice direttore della D24, licenziasse il conduttore Barisoni e io mi beccassi anche l'indennità di mancato preavviso con me stesso. Io non lo so, vabbè. E questo al di là di qualunque commento uno può dare su come ha funzionato l'ANAS e su cosa è stata la società Stretto del Ponte di Messina, che ci è costata tantissimo solo di progettazione, ma qui lì non è la colpa di Ciucci, lì insomma ci fu chi, il governo Berlusconi, credette in quell'operazione, obiettivamente col senno di poi, che non aveva nessun senso, dai. In diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa ha chiuso in rialzo dello 0,78% a Milano, dello 0,80% a Parigi, dello 0,60% a Francoforte. Il New York è invece leggermente negativa, meno 0,11%, Londra più 0,17%, euro a quota 1,1211. Il miglior titolo si conferma G-Tech più 4%, Moncler più 3%, peggior titolo Wood, Duty Free meno 1,60%, Yux meno 1,50%. Arriviamo fra pochissimo alla borsa, però come annunciato, visto che ci ha raggiunto in collegamento, siamo pronti per parlare di un settore che domani celebra la fiera più importante a livello mondiale, ma che è uno dei settori trainanti del Made in Italy. È un viaggio che stiamo compiendo da mesi e quindi parliamo oggi degli occhiali italiani. Sì, parliamo di occhiali. Perché? Perché da domani fino al 2 marzo, come ogni anno, alla Fiera di Milano si terrà l'edizione del Mido, che è la mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia. È la 45esima edizione ed è la vetrina più importante a livello internazionale del mondo degli occhiali, anche perché noi siamo il primo produttore e anche come valore dell'export. 1200 espositori provenienti da 5 continenti. Faccio notare, visto che noi da sempre seguiamo i settori che stanno andando, anche i settori che stanno andando meglio e che grazie all'export controbilanciano il calo o la stagnazione dei consumi interni, dicevo, l'occhialeria in Italia vuol dire quasi 900 aziende per 16.000 addetti. Tra l'altro il numero di occupati è cresciuto nel 2014 del 2,3%, uno dei pochi settori in cui è cresciuto. La produzione vale circa 3,2 miliardi, anche questa è cresciuta, con un nuovo record nelle esportazioni. Pensate che qui ricordo un po' la nautica, su 3,2 miliardi l'export vale 3,1 miliardi, e quindi è un valore, sostanzialmente avete quasi 94 milioni di paia di occhiali esportate, anche qui in crescita del 2%. E ragioniamo di export e di mercato interno, che purtroppo ha segnato anche nell'anno che si è appena chiuso un calo. Ne ragioniamo, dicevo, con il presidente del Mido, quindi della fiera dell'occhialeria, dell'ottica in generale, nonché di ANFAO, che è l'Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Articoli Ottici, Cirillo Marcolin. Buonasera. Buonasera. Dicevo, a ascoltare questi dati sembrate, assieme a altri settori, anche lì tutti quanti punti di forza del Made in Italy, l'agroalimentare con il vitivinicolo, soprattutto alcune parti della moda, del lusso e del legno arredo, sembrate un'isola felice. La quota di export è impressionante ormai nel vostro settore? È il leitmotiv delle nostre imprese. Il successo è stato acquisito proprio andando all'estero. Ricordiamo che l'occhiale è stato inventato in Italia nel XIII secolo. Le aziende leader sono italiane e sono venete. E lo sviluppo è chiaramente derivato prima dall'Italia, ma soprattutto in questi ultimi anni hanno potuto competere a livello internazionale proprio per le grosse esportazioni. Un risultato interessantissimo anche nel 2014, come lei ha anticipato prima. Tra l'altro la quota europea, che noi chiamiamo mercato domestico ormai l'Europa, però per voi è ancora la metà di tutte le esportazioni, della produzione, scusatemi, il 50% va in Europa. Ed è aumentata anche lì. Dov'è che avete avuto i segnali più confortanti e anche le sorprese maggiori come export? Ma innanzitutto confortanti sicuramente l'Eurozona, perché alcuni paesi hanno confermato il consolidamento, cioè da un lato la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania. Poi abbiamo notato che tre paesi che hanno subito qualche difficoltà qualche anno fa sono ripartiti, hanno iniziato a comprare di più prodotto italiano nell'occhiale, e mi riferisco alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo. Anche la Grecia. Speriamo che lo faccia anche l'Italia. Ecco, adesso arriviamo all'Italia, perché invece in questo appello, che con le cifre appunto Gran Bretagna più 23, Francia più 7, Grecia più 15, si partiva da livelli molto bassi, certo. Chiaramente distrutto il potere d'acquisto dei greci, Portogallo più 13, ragionamento simile a quello della Grecia, e Spagna più 8,2, poi c'è questa Germania dove avete esportato il 28% in più. Complimenti. Il resto del mondo invece, partendo dagli Stati Uniti, dove appunto noi abbiamo anche comprato nel passato marchi lì famosi, Ray-Ban su tutti, ma non solo, e poi andiamo all'Asia. Paesi indubbiamente che hanno confermato il consolidamento. Gli Stati Uniti rappresentano per il nostro settore il 30% del mercato. Ah, il 30%. Il 30%. L'export è cresciuto negli Stati Uniti di oltre il 13% quest'anno. Indubbiamente dobbiamo riconoscere che il mercato americano funziona, l'inflazione non c'è, c'è la crescita, non c'è deflazione, quindi è un mercato dove dobbiamo continuare a puntare per il futuro. Per quanto riguarda gli altri paesi... Quelli emergenti, quindi Brasile e Asia, diciamo. Ecco, c'è una certa sofferenza in Brasile, indubbiamente anche noi abbiamo il problema geopolitico della Russia, però va detto che rispetto agli altri comparti l'export è molto frammentato, quindi il rischio delle nostre imprese è contenuto perché la Russia conta il 3% in tutto il nostro comparto. Che ha avuto un calo, meno 17. Sì, ha avuto un calo. Però voi dite siete molto diversificati nei paesi in cui esportate. Sì, il paese, ad esempio la Germania, che è molto forte, rappresenta il 9%. E Asia invece? Per quanto riguarda l'Asia c'è chiaramente un grosso potenziale, noi continuiamo a puntare, sappiamo benissimo che se anche le crescite sono interessanti in valore assoluto sono più marginali, ma dobbiamo ricordarci che se prima si puntavano paesi come il Brasile, la Russia e l'India, dobbiamo pensare alla Malesia, alla Turchia, ad altri paesi emergenti che potranno dare nel tempo in futuro. Come avete fatto a fare in Cina il più 178%? Perché evidentemente il punto di partenza era comunque contenuto. Oggi l'export è importantissimo, ma bisogna lavorare ancora molto per penetrare il mercato asiatico. Anche Corea del Sud più 20, India più 16, Giappone più 27,6%. Addirittura leggendo i vostri dati, Africa più 15 e Sudafrica più 17. Per cui noi importiamo anche occhiali, per cui il saldo alla fin fine è positivo per 2 miliardi, cioè importiamo quasi 1 miliardo di occhiali da fuori. Sì, questo dimostra intanto la vitalità del nostro settore, primo. Secondo, il saldo della bilancia dei pagamenti è sicuramente interessante. Teniamo conto che nel mondo del lusso noi abbiamo una percentuale che raggiunge il 10% quando a livello di produzione contiamo per 2,50. Quindi il nostro differenziale è veramente importante. Di nuovo in diretta, allora chiedo al Presidente del Mido, il caso del distretto dell'occhialeria è proprio uno dei casi classici dei distretti industriali, Cirillo Marcolin, abbiamo commentato qualche giorno fa il settimo rapporto di Intesa San Paolo sui distretti industriali che hanno fatturati più alti delle singole aziende che operano negli stessi settori ma non in un distretto. Distretto, voi siete il caso classico, un'azienda che parte per prima, fa da apripista, poi per gemmazione se ne creano delle altre, ma soprattutto si rubano idee, ma si crea anche una conoscenza e un know-how diffuso in quell'area geografica e poi si crea un'intera filiera, quindi fornitori, subfornitori e quant'altro. Allora, lo stato di salute, Intesa San Paolo vi ha messo tra i 4 distretti più importanti dopo la gomma del Sebino Bergamasco, i vini del Chianti, il distretto del caffè, delle confetterie, del cioccolato torinese e poi c'è appunto l'occhialeria di Belluno. Lo stato di salute e soprattutto quanto è cambiato, lei che c'è nato e cresciuto nel distretto industriale di Belluno rispetto a 10 anni fa? No, il distretto è indubbiamente cambiato, la situazione non possiamo paragonarla rispetto a quella di 10 o 20 anni fa. Quello che va detto è che le competenze sono state mantenute, ancorché qualche azienda abbia deciso in parte di delocalizzare, il quartiere generale, la creatività, l'industrializzazione, la prototipazione è comunque rimasta in Italia. A questo aggiungo un altro fatto importante, lei prima citava una crescita dell'occupazione, 2,3% 2014 su 2013, questa è dovuta anche a un fenomeno interessante che stiamo riscontrando, che è quello del back to Italy e del reshoring. Quindi una serie di aziende, anche leader di mercato, hanno valutato l'opportunità di rientrare in alcune produzioni perché il maggior costo diciamo della produzione è più che ben compensato dall'immagine, dalla qualità. Abbiamo fatto un'intera puntata sul reshoring, non sono ancora tantissimi i casi in Italia, in America di più, negli Stati Uniti intendo dire, però molto importanti, nel senso che soprattutto per le produzioni ad alto valore aggiunto, lo dico, è chiaro che se tu fai produzione a basso costo e basso valore aggiunto per il mass market, non dico che ti convenga stare fuori, però il costo della manodopera è fondamentale. Ma quando tu lavori sulla fascia medio-alta, dove tutto il made in Italy da esportazione si è spostato, lei ci sta confermando che conviene riportare nel bellunese, faccio per dire, le produzioni, perché la qualità, la capacità, l'innovazione dell'artigiano nostro, artigiano non è mica il ciabattino di Pinocchio, è un'altra cosa, competono ampiamente con il costo più basso della manodopera, ma di un prodotto di minor qualità? Sì, per un altro fattore importante, innanzitutto anche l'evoluzione della Cina, perché il costo della manodopera cinese sta incrementando moltissimo. Teniamo conto poi che il consumatore vuole essere servito in modo adeguato, che le produzioni devono essere flessibili, che il rapporto dollaro-euro è cambiato, quindi agevola la produzione in Italia per l'esportazione, e non ultima cosa come importanza, che il consumatore è molto attento ai fenomeni ambientali e sociali. E quindi c'è anche un altro aspetto, diciamo, l'aspetto reputazionale, certo, chiamiamolo in questo modo. Ultima nota prima di chiudere: il mercato interno, -1% anche quest'anno. Avete qualche segnale? Non voglio fare di nuovo il commento sui consumi, tanto insomma, se la disoccupazione è record, la pressione fiscale è alta e quant'altro, è difficile che ripartano i consumi interni, ma qualche segnale nei primi mesi dell'anno vi è arrivato o no? C'è un segnale di una maggior fiducia da parte del consumatore, primo. Il secondo concetto che ci terrei a dire è anche che il governo in qualche modo ha cercato di finanziare attraverso un progetto straordinario per sostegno del Made in Italy appunto le imprese manifatturiere, e con orgoglio posso dire che come presidente del Mido siamo stati considerati fra le 15 fiere internazionali in Italia più importanti. Teniamo conto che il Mido, che appunto si aprirà domani, ospita 2/3 degli espositori sono stranieri, 2/3 dei visitatori, quindi nell'ambito del comparto dell'accessorio di fatto è la fiera più internazionale, quindi credo che questo sia già un buon passo avanti. Cioè, auspichiamo che le grandi riforme strutturali enunciate possano passare ai fatti, e ritorniamo sempre ai soliti concetti di riduzione del cuneo fiscale, agevolazione del credito soprattutto per le piccole e medie imprese. Ma se questo è un buon auspicio, oggi avevamo il ministro Calenda con noi alla presentazione della conferenza stampa, penso che si possa andare verso una strada della crescita anche per il mercato italiano. Sì, e Carlo Calenda ci ha raccontato proprio la settimana scorsa come ha scelto le 15, se non ricordo male, fiere campioni nazionali, quelle da finanziare. I criteri, appunto, non sovrapposizione, basta guerre di campanile e da provincia, aggiungo io, tra fiera e fiera, quelle che si aggregano, che sono internazionalizzate, e voi eravate tra queste in effetti, possono ricevere i soldi dello Stato. La traduco in maniera un po' brutale, ma è così. Dal Jobs Act, concludo, e qui lo chiedo più all'imprenditore, vi attendete, o meglio, qual è la valutazione, e se ritenete che da lì possa arrivare anche una maggior facilità delle assunzioni? Beh, è indubbio che questo può solo che facilitare. Io credo che ci siano tanti fattori che possono permettere a un'azienda di essere competitiva, ma sicuramente la manodopera è un fattore importantissimo nel nostro settore. Noi siamo partiti con l'artigianalità che lei citava, la tradizione, l'abbiamo trasformata in innovazione, in creatività, ma indubbiamente le macchine ci sono, ma la manualità è importante. Allora, grazie, in bocca al lupo a tutti gli espositori, e soprattutto in bocca al lupo alle aziende italiane, alle 870, se non ricordo male, aziende italiane che operano nel settore, e a maggior ragione, come sempre facciamo, agli addetti, a chi vi lavora tutti i giorni, oltre 16.000 persone. Grazie al presidente di Mido e Anfao, Cirillo Marcolin. Grazie, buonasera. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso della borsa, ultima seduta della settimana, e poi dello spread, notizia forse più forte oggi anche della borsa, più 0,78% Milano, dicevamo, più 0,80 Parigi, più 0,66 Francoforte. Tra i titoli oggi, devo dire, non è una giornata di quelle che passeranno agli annali: G-Tech più 4, Moncler più 3, Pirelli più 3%, Enel più 2,20, Monte dei Paschi più 1,60 come Enel Green Power, Atlantia più 1,30 come Intesa San Paolo e Mediaset, Ferragamo più 1% come la Pop Emilia Romagna, Eni, Eterna più 0,80%, Prismian e Toz, ma anche Snam più 0,70%. Wall Duty Free -1,60%, Jux -1,50%, Mediolanum -0,50%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. G-Tech. G-Tech ha festeggiato da prima della classe il via libera arrivato ieri da autorità americane, l'ultimo via libera alla fusione con IGT, il gruppo americano che quindi farà nascere un grande gruppo internazionale sempre attivo nei giochi come è l'ex Lottomatica, e quindi è stata la migliore del listino, ha guadagnato il 4%, era una via libera atteso ma che chiaramente il mercato ha celebrato. Moncler +3,14%, qui ci sono le attese per i conti, mi sembra, nonostante un inverno obiettivamente mite e le polemiche dopo report, mi sembra che il mercato sia positivo. Sì, certamente in attesa dei conti della prossima settimana il mercato lo ha un po' riscoperto, oggi in una giornata in chiaro scuro per il lusso, perché Jux ha ripiegato, mentre sono state positive le Ferragamo, le Tozza ad esempio, però chiaramente c'è una fiducia sui conti dopo un periodo anche difficile per il titolo, anche per le cose che tu citavi, ma chiaramente si è ritornati a ricoprirsi su questo titolo, ha guadagnato oltre il 3%. World Duty Free invece si sta un po' sgonfiando le varie ipotesi sulla parte, nonostante le dichiarazioni della holding di Benetton che ha detto di essere, come abbiamo ricordato più volte, aperta a ogni valutazione, -1,60% oggi. Sì, una correzione che ci sta in finale di settimana, dove ha guadagnato oltre il 7%, sì. Si sono rincorse le voci di interesse da parte di gruppi svizzeri, di altri parti, gruppi asiatici, per un'operazione di integrazione con la società di vendita al dettaglio negli aeroporti. È da tempo che ci si aspetta un'integrazione internazionale per questo gruppo, quindi la società resta positiva rispetto a questa prospettiva. Il mercato ogni tanto realizza, ma senz'altro si attende che le prossime settimane qualcosa di nuovo succeda. Rai Way da un lato e A-Towers dall'altro, non ci sono novità particolari. Rai Way oggi? Rai Way ha guadagnato il 3,5% e A-Towers anche si è mossa in rialzo, ha guadagnato l'1,5%, segno che il mercato non molla, continua ad aspettare, a tenere la posizione, ad aspettare che ci siano dei passi formali che in un senso o nell'altro facciano capire dove va l'operazione. Attualmente insomma, lo stop del governo e comunque i commenti che sono arrivati anche dal consiglio di amministrazione di Rai, per quanto abbia solo preso atto, sembrano gelare, diciamo così, l'offerta presentata dalla controllata di Mediaset, ma il mercato per il momento resta sul pezzo. Però non scherziamo, Mediaset è un gruppo serissimo, non fa votare dal CDA un'operazione da quasi 800 milioni di euro con JP Morgan a finanziare, perché ignora la legge che conoscono tutti, cioè che quando la Rai o il Tesoro ha collocato attraverso la Rai Rai Way in borsa, l'indicazione è stata che la Rai non potesse scendere sotto il 51%, questo per ricostruire la vicenda, una delle più importanti della settimana. Ora, nessuno lancia un'offerta ignorando la legge, quindi evidentemente si è posizionata Mediaset da questo punto di vista, perché non era mica una scoperta che la legge con cui è stato collocato Rai Way in borsa prevedesse che la Rai mantenesse il 51%, ne ha collocato, adesso vado a memoria, il 30, per cui, cioè, per forza di cose l'offerta sul totale andava contro la legge, ma è un modo per posizionarsi. Detto ciò, Sorin, ieri molto forte per via dell'accordo, stiamo parlando di biomedicale, con Cyberonics. Sì, oggi una naturale correzione, ieri aveva chiuso con un guadagno superiore al 30%, oggi una correzione fisiologica, ma neppure troppo significativa, solo -2,3%, segno che appunto il mercato continua a credere nella bontà di questa operazione. Chiaramente oggi si trova un po' respirato, non allontanandosi troppo dai 3 euro. Allora, migliori e peggiori: Media Contact +17,70, la Doria +12, MacLink +9,30, risanamento +7,80, fronte opposto, Tech Value meno 6, IT Way meno 5,60, Metorius Capital meno 3,60, Meridie meno 3,50%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buon fine settimana ai colleghi dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore. Capitava dal maggio del 2010 che il nostro spread, la differenza tra quanto costa a noi trovare finanziatori per il debito, gli interessi che dobbiamo pagare rispetto a quanto non costi alla Germania, che è considerato il riferimento, il benchmark, non capitava dal maggio del 2010 che questa differenza fosse sotto il punto percentuale di rendimento, cioè sotto i 100 punti, come si dice in gergo. Oggi il nostro spread è sceso a 98,5 punti. Faccio notare che maggio 2010 non è un caso, perché a giugno, nell'estate diciamo del 2010, scoppiò per la prima volta la crisi del debito greco, che poi ci trascinammo in tutto il 2011 e ancora ci trasciniamo. Da lì corse il nostro spread, perché partì la corsa speculativa dopo la Grecia, dopo il Portogallo, dopo la Spagna, l'Italia, molti di voi la ricorderanno, e arrivammo nel novembre del 2011 a 550 punti, quel novembre difficilissimo in cui poi si arrivò alle dimissioni del governo Berlusconi. Ora siamo a 98 punti e mezzo, con un rendimento a un nuovo minimo storico del BTP a 10 anni, l'1,305%, ancora un po' più alto di quello spagnolo. Comunque, Moria Longo, la voce e la firma del Sole 24 Ore quando parliamo di titoli obbligazionari, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto il motivo di questo calo e poi anche il risparmio, perché ho visto già delle agenzie che parlano di 2 miliardi di risparmi ulteriori dal calo dello spread. Sì, allora, i motivi, ecco, per essere chiari, il governo sicuramente ha ricevuto il plauso sul Jobs Act, l'Europa ha visto la finanziaria, la legge di stabilità passare, però non è merito del governo, dai. Merito del governo. Allora, il motivo principale per cui lo spread è sceso così tanto e soprattutto i rendimenti sono scesi sui minimi storici è legato alla politica monetaria della Banca Centrale Europea. Come tutti sanno, a marzo, quindi settimana prossima, la Banca Centrale inizierà a comprare titoli di Stato di tutta l'area euro, inclusi quelli italiani. Il famoso quantitative easing. Esattamente, comprerà 60 miliardi di titoli di Stato al mese. Almeno fino a settembre del 2016. Esattamente, con l'obiettivo di far ripartire l'inflazione e anche la crescita come obiettivo secondario, diciamo. L'attesa di questi acquisti ha fatto sì che il mercato iniziasse a comprare titoli di Stato, diciamo, in anticipo, sapendo che appunto settimana prossima arriverà un compratore gigantesco come la Banca Centrale Europea. Questi acquisti della Banca Centrale Europea creeranno, secondo molti economisti, un effetto scarsità, perché comprerà così tanti titoli di Stato che gli acquisti della BCE saranno quasi uguali alle emissioni nette degli Stati. Quindi ci sarà una mancanza di titoli di Stato, anche perché alcuni soggetti, per esempio l'assicurazione e i fondi pensioni, probabilmente non li venderanno alla Banca Centrale Europea, perché se vendessero titoli che hanno comprato anni fa con rendimenti più alti, poi investire con tassi a zero. Quindi è possibile che la BCE faccia addirittura, non dico tra virgolette, fatica a comprare questi titoli, quindi ci sarà un effetto scarsità. Sta aumentando gli acquisti sul mercato, e tutti sanno solitamente quando c'è scarsità si va a comprare perché i prezzi tendono a salire, quindi i rendimenti a scendere. Quindi il mercato sta anticipando questo effetto scarsità, sta anticipando questi acquisti massicci annunciati dalla Banca Centrale Europea, e questo sta ovviamente facendo scendere i rendimenti in maniera molto forte. Spiegazione chiarissima, complimenti Moria, nel senso che appunto, sapendo che ci sarà, come tu spiegavi molto bene, da marzo ci potrebbe essere una scarsità di titoli di Stato, perché il grosso se li compra la BCE e molti non vogliono vendere. La spiegazione anche in questo caso: se tu hai un titolo di Stato che rende, poniamo il 3%, non vai a venderlo perché lo porti a scadenza in questo momento, perlomeno. Magari è un BTP a 10 anni, ti mancano, poni 7 anni perché scada, perché ti garantisce il 3% di rendimento all'anno. Adesso se tu vai a venderlo e compri un BTP a 10 anni ti garantisce l'1,30% lordi. Esatto, soprattutto questo proprio per esempio delle assicurazioni che devono garantire poi nelle polizze dei rendimenti e stavo arrivando lì dei flussi costanti di guadagni. E da questo punto di vista allora il mercato si posiziona adesso, va a comprarli e più domanda c'è più di un bene, più da questo punto di vista si possono calare i rendimenti, ossia aumenta il prezzo e cala il rendimento dell'obbligazione. Quindi, e gli stati possono offrire rendimenti sempre più bassi e trovando comunque compratori, visto che la domanda è buona. Minuti di nuovo in diretta. Allora Mario Longo, questo è il motivo per cui stanno calando i rendimenti e aumentando i prezzi, appunto sono inversamente proporzionali. C'è molta domanda e c'è il timore che la BCE compri così tanti titoli di Stato dall'inizio marzo, quando partirà l'operazione, da lasciare il mercato un po' a secco. I benefici per lo Stato italiano, noi calcolavamo nella legge di stabilità 6-7 miliardi di benefici da interessi più bassi che paghiamo sul debito, ma qui forse la cifra va riaggiornata a beneficio dello Stato italiano verso l'alto. Sì, assolutamente, ci si parlano, come dicevi prima, di un ulteriori 2 miliardi di benefici risparmi, che in un debito pubblico di oltre 2.000 miliardi non è che siano granché, però diciamo fanno la loro aiutano. Detto questo, però, tutto questo non è sufficiente, secondo i calcoli degli economisti, per frenare la crescita del rapporto debito-PIL. Questo è il vero problema, per due motivi: perché da un lato il PIL purtroppo cresce ancora troppo poco, soprattutto in un momento di inflazione negativa, certo, e quindi il PIL nominale cresce veramente poco; dall'altro perché il tasso di interesse pagato effettivo pagato dallo Stato, quello sull'intero stock di debito, non solo quelli emessi adesso, certo, ma anche quelli vecchi che hanno rendimenti più alti, è comunque ancora alto. Perché noi stiamo pagando gli interessi, chiaro che abbiamo emesso anche in questa settimana, la settimana scorsa, alcuni miliardi di BOT, BTP e quant'altro, però non è che si emettono una volta sola, tu li hai emessi 3-4 anni fa e paghi interessi alti, e adesso paghi interessi molto bassi, ma la quota è ancora minoritaria rispetto al totale del nostro debito, lo stock del debito. Ecco, difatti, quindi questo fa sì che il rapporto debito-PIL continui, abbia una dinamica ancora in crescita. Calcolavano per esempio prima con me gli economisti di HSBC che per stabilizzare il rapporto debito-PIL servirebbero due cose: o un surplus primario del bilancio, cioè quindi l'avanzo dello Stato prima del pagamento di interessi dovrebbe arrivare al 4% dall'attuale 1,6%, oppure l'inflazione dovrebbe andare al 2%, una delle due cose. Sull'inflazione la spiego, la deflazione, cioè la non inflazione, i prezzi negativi, come abbiamo spiegato molte volte, oltre che essere negativi perché rimandano le spese di investimento, sono negativi, una brutta cosa per tutti quelli che hanno un debito, perché se tu hai un debito di 1.000 euro e hai l'inflazione, poniamo al 10%, così dico cifre facili, l'anno dopo il tuo debito vale il 10% in meno, no? Per cui varrà 900 euro. Ma se tu hai una deflazione, cioè prezzi in calo del 10%, a livello reale l'anno dopo i 1.000 euro che devi valgono 1.100 euro e quindi devi più soldi. Ecco perché per uno Stato come quello italiano, che è il più grande debitore dell'area europea, la deflazione vuol dire aumentare il valore reale del tuo debito. Grazie Mario Longo del Sole 24 Ore. Ultimo tema, rapidissimi, un po' simile: i prezzi della benzina. Anche qui la benzina non si compra tutti i giorni, però c'è un andamento abbastanza strano. Da un lato il petrolio sta sotto i 50 dollari, ma la benzina è tornata a salire. Prezzi della benzina oggi segnalano da più parti, e lo dicono anche le agenzie, tornati a 1,7 euro per litro, con punte al sud di 1,763 litri. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, lei o tu di solito intervieni, visto che mi hai chiamato Sebastiano, parlando delle immatricolazioni auto. Però sì, esatto. Oggi, per diversificare, avete prodotto anche una stima di quanto abbiamo risparmiato tutti gli italiani assieme a gennaio per carburante. Quanto abbiamo risparmiato? Abbiamo risparmiato 761 milioni, quindi una cifra abbastanza consistente. Cioè praticamente una riduzione degli introiti da 4 miliardi 898 milioni spesi a gennaio 2014 alla pompa, qui abbiamo speso 4 miliardi 137 milioni, meno 15,5%. La domanda potrebbe essere, vabbè, magari è un'ulteriore contrazione della spesa. No, perché i consumi sono aumentati, anche se poco, sono aumentati dello 0,4%. E niente, questo dipende essenzialmente dal fatto che sono calati i prezzi. Questo calo naturalmente è con riferimento al gennaio 2014. E rispetto al gennaio 2014 i prezzi medi ponderati sono calati del 14,82% per la benzina e del 16,16% per il gasolio. E questo naturalmente ha determinato una minor spesa corrispondente per gli italiani, per i consumatori, ma anche per gli autotrasportatori ovviamente. Allora, veniamo all'ultimo tema, perché l'Unione Petrolifera, qualcuno si ricorda le mitiche litigate che facevo con lo scomparso presidente dell'Unione Petrolifera italiano De Vita, però l'Unione Petrolifera diceva tutto bene in una nota, perché la crescita dei prezzi dei carburanti nelle ultime settimane è strettamente legata alla ripresa delle quotazioni internazionali. Noi non la vediamo, ma anche tu hai notato di nuovo tensioni sulla pompa? Sì, risulta una tensione pompa. Sulla pompa, sì, però alla pompa, esatto. I miei dati però si fermano a gennaio, quindi in febbraio le cose sono probabilmente cambiate. Le cause, secondo me, bisognerebbe chiederle all'Unione Petrolifera. Io non ho elementi per intervenire. Quello che posso dire è che il calo dei prezzi di gennaio era coerente con il calo del prezzo del greggio. Sì, io non capisco, veramente non capisco. Adesso torneremo a invitarli, perché il petrolio è vero che ha fatto a un certo momento 56-57 dollari al barile per pochi giorni, e adesso però è tornato a 49 dollari al barile. Oggi era in calo dell'1,7%, e poi ci hanno sempre detto: attenzione, non guardate giorno per giorno, perché i contratti vengono fatti con tempo. Per cui non capiamo, insomma, questi prezzi alla pompa variano sempre, non lo so, dimmi. Però bisogna tenere conto di una cosa, che noi non possiamo guardare i prezzi in dollari, perché hai ragione, l'euro si è deprezzato, a 1,11, 1,12, però un mese fa, adesso rifaremo i calcoli così vediamo, un mese fa era sempre vicino a 1,14. Comunque non è compito tuo, non voglio accusare te. Grazie anche Gianprimo Quagliano per averci ricordato quanto abbiamo risparmiato nel pieno, fermo restando che non è calata la domanda, è un risparmio dovuto al prezzo della benzina. Grazie al direttore del Centro Studi Promotor, da Sebastiano Barisoni. L'ultimo ringraziamento va come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. L'auguro di un buon fine settimana a tutti voi, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.